Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera a tutti da Stefano Dainese, sono in perfetto orario, siamo in perfetto orario perché non sono solo in studio questa sera, è una di quelle serate speciali, una di quelle serate che noi attendiamo con particolare fremito interno. Ho già fatto la prima papera perché c'è sempre un po' di emozione quando abbiamo in studio qualche ospite che non viene disarmato ma viene con una chitarra, in questo caso con degli strumenti, per presentarci dal vivo la sua musica, la loro musica. Questa sera con me c'è William Knight, che è anche conosciuto, diciamo, sotto lo pseudonimo, o meglio come band leader di un gruppo che si chiama The Italians. Questa è una cosa molto interessante, lui è inglese ma parla molto bene l'italiano, quindi ti do il benvenuto, William. Grazie, buonasera a tutti. Parli bene l'italiano perché abiti in Italia, giusto? Sì. Anzi abiti vicino a Padova. Sì, abito a Treviso. Ma non so se parlo bene l'italiano, ma almeno, te lo dico io, non ti preoccupare. Grazie. Ma almeno riesco a farmi capire, spero. Direi che più che bene, insomma. Quanti anni è che abiti in Italia? Sono qua da 3 anni adesso. Da 3 anni? Sì. Beh, complimenti. Sapevi già l'italiano prima? No. 5 anni fa sono venuto a fare un spettacolo. Sono stato qui 7 mesi per fare un spettacolo in tutta Italia, nei teatri. Tipo un spettacolo dei Beatles, la storia del gruppo più delle canzoni. Ma eravamo qui 7 mesi e abbiamo parlato sempre in inglese perché eravamo un gruppo di inglesi, quindi ho imparato a parlare l'italiano perfettamente nei ristoranti per ordinare quello che volevo. Questo è molto importante. A parte quello, non parlavo niente dell'italiano. Invece, da quando sono venuto qua 3 anni fa, ho dovuto imparare perché per girare per... Beh, direi che in soli 3 anni te la cavi alla grande. Sto pensando ad altri tuoi connazionali come Mal, che abita in Italia da 50 anni e che ha ancora, diciamo, molti problemi con la nostra lingua, almeno l'ultima volta che l'ho sentito in televisione. Allora, tu sei qui per presentarci questo un mini album, diciamo, sotto il nome di The Italians, che è la tua band, che è una band composta da italiani? Sì, gli altri del gruppo con cui ho fatto questo EP sono italiani. Quindi, vabbè, loro sono veramente Italians. Sì. Siccome noi facciamo sempre così, vogliamo introdurre un po' il nostro pubblico in modo che sappia di... magari qualcuno che non ha ancora avuto l'occasione di sentirti, facciamo ascoltare una prima canzone tratta da questo extended play, che è un brano che si intitola Best Dressed Man, l'uomo meglio vestito, più o meno. Sì. No? Ero curioso, si riferisce particolarmente a qualcuno? No, questa canzone è scritta veramente basata su nessuno, perché parla di un uomo che... piace vestirsi come donna. Okay. Quindi è stato l'idea per la canzone è venuta, non so da dove è venuta, ma una bottiglia di vino di troppo. Probabilmente sì. Bene, allora non facciamo nomi, e comunque questa è Best Dressed Man, The Italians, qui su Blu Radio Veneto. Shangri-La, won't you come inside? Sit down, let me take you for a ride. You and I were just the same, we could be a pair. Tell me, where'd you get that ribbon in your hair? Oh, I'm a midnight child, here to drive. Thank you. the drinks are free. Maybe we can cause good privacy. Take a little sip, my dear, sit and watch the show. Then maybe we can find a place to go. Yeah. Oh, I'm a midnight child, here to drive you wild. But tell me, what's that lipstick that you're wearing? Could it be that it's for sharing? Girl, you got such lovely eyes, and I think you're just my size. Can't wait for you to take off that dress, 'cause now it's gonna suit me best. You're only young. Don't let all your virtues go unsung. Take a look around you now. You know that it's true. We won't let your conscience tell on you. No. Oh, I'm a midnight child, here to drive you wild. Tell me, what's that lipstick that you're wearing? Could it be that it's for sharing? Girl, you got such lovely eyes, and I think you're just my size. Can't wait for you to take off that dress, 'cause now it's gonna suit me best. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Questa era Best Dressed Man da The Italians, appunto questo extended play che è uscito da pochi mesi. No, è uscito un anno fa adesso. Ah, quindi è arrivato un po' in ritardo. Sì. No, ma è così, perché non si può fare tutto tipo un CD autoprodotto così, bisogna fare tanto per fare sentire... Sì, sì, le canzoni per farlo conoscere in giro. Sì, non è come avere una casa discografica che ti aiuta a fare pubblicità, quindi. Certo. Allora, William ha cominciato, lo dico ai nostri ascoltatori, facendo cover dei Beatles. Ti è rimasta la pettinatura? Tu facevi Paul nel... No, facevo John. Facevi John? Sì. Ah, ok. Che assomigli un po' a Paul McCartney, per quello sì, forse non sono il primo che lo dice. No, vero? No, è vero, ma soprattutto è stato un po' un problema al sud d'Italia. Forse non devo dire così, ma siamo al nord, quindi va bene. No, no, solo vero, perché... Hai già imparato tutto dell'Italia. No, il fatto è che in certi posti, non solo al sud, anche al nord, ma in certi posti dove non hanno capito bene... la storia, alla fine dello spettacolo hanno chiesto tipo, ma hai fatto il ruolo di John o di Paul? Okay. E quindi arrivando alla fine non erano ancora sicuri di che ruolo fa. Si vede che non sapevano molto, insomma, un vero Beatles fan. basta vedere le canzoni che uno canta per capirlo. Questo brano però più che i Beatles a me ricordava Paul Weller e i Kinks. I riferimenti sono sempre inglesi, comunque la tua musica è profondamente britannica, direi. Sì, sì, ma è una cosa che ho capito dopo di di quando sono venuto in Italia, perché in Inghilterra sembrava solo musica. Beh, chiaro. Ma qui tutti mi dicono, ma sembra veramente un suono inglese. Quindi ho cominciato a pensare, ok, ma perché inglese? E secondo me è perché è molto ritmato, le canzoni sono così, c'è il ritmo sotto, c'è la melodia, ma sempre non è mai tipo dritto, va così, è sempre un po'. Che è una cosa che viene degli anni 60, i beat. Il beat, esatto. Beatles, i Kinks. Mentre gli americani sotto hanno sempre il blues. Esatto. Poi vabbè, ci sono i Led Zeppelin che erano inglesi, però sì. Erano più blues degli americani, ma vabbè, questo è un altro discorso. Cominci a suonarci qualche cosa dal vivo, posso sì? chiederti? Sì, certo. Ci puoi dire di che canzone si tratta? Sì, questa è una canzone abbastanza nuova, non nuovissima, ma ce l'abbiamo fatto per un anno con il gruppo, no, un po' meno, ma è una delle canzoni che mi piacerebbe registrare quest'anno su un album, e si chiama Beatrice Smiles. Benissimo, allora William Knight dal vivo qui su Blu Radio Veneto con Beatrice Smiles. City, dentist looking at the sky and joining up the dots made by the stars to pass the time. Although it's not forever, it could be a little while, but it's all about the moment when Beatrice smiles. Over at the station, dentist spends the afternoon writing her a letter saying, come and see me soon. He doesn't give up hoping, just forgets to say goodbye, 'cause he's lost inside a picture watching Beatrice smile. And the river turns a corner where the streetlights show the way, and I'm following the former just to see how it behaves. Dentist gone out fishing, maybe trying to catch your eye, and darling, if you miss him, he will be with you tonight. Hiding from the winter in the pleasure of her kiss, dentist signs an autograph pretending it's not his. Yes, it may be stupid, but you know it's just his style, and I guess it makes him happy watching their teacher smile. And the river turns a corner where the streetlights show the way, and I'm following the former just to see how it behaves. Dentist gone out fishing, maybe trying to catch your eye, and darling, if you miss him, he will be with you tonight. Beatrice Smiles, questo è un brano che ha dei riferimenti all'Italia, mi pare di capire. Sì, un po', l'ispirazione viene da Dante, ovviamente, della commedia. Infatti l'ho scritto a Treviso, camminando lungo il fiume, Il sile. Come si fa a scrivere una canzone camminando? Io pensavo che bisognasse suonare. No, infatti, per me è il momento più difficile per scrivere, è quando ho la chitarra davanti a me, perché c'è tutto possibile, si può fare qualunque cosa, qualsiasi cosa. Invece, quando non c'è la chitarra, ho paura e dico, questa è un... arrivano le idee perché non posso lavorare su quella canzone, quindi arriva qualche idea mentre sto camminando, anche in treno succede spesso. Ah. Quindi adesso ho imparato di portare sempre un registratore. Ma su uno smartphone adesso, sì. Molto, molto più facile. Una volta andare in giro con un Revox sarebbe stato più complicato. Sì, ma adesso la tecnologia è fantastica, perché si può fare questa roba qui, si può registrare un piccolo pezzo di una canzone e dopo tornare a casa e lavorarci sopra. Ma come ti è venuto in mente Dante e Beatrice, cioè un riferimento molto importante, diciamo, come scrivere una canzone su Shakespeare o... Sì, infatti la canzone non si tratta di Dante e Beatrice della commedia, è solo un punto d'inizio. Si parla di un uomo qualsiasi, una donna qualsiasi, che è questo uomo che sta pensando a questa donna, che in qualche modo vuole spiegare che è così importante, lei è così importante per lui. Come era Beatrice per Dante. Esatto. Dante è conosciuto in Inghilterra, non so mai... Dante sì, un po'. Dico fuori dalle università. Sì, un pochino, ma solo Dante. Tipo, neanche Boccaccio è conosciuto in Inghilterra. Ah. Peccato, anche perché Chaucer, Geoffrey Chaucer, che ha scritto, sì, The Canterbury Tales, ha rubato metà della sua roba da Boccaccio. Ma... immagino sia un po' tardi per fargli causa. Sì. Ormai è andato. Beh, anche i Led Zeppelin hanno preso qualche giro di blues da qualche povero nero americano che, sì, è morto in miseria, mentre loro ci hanno fatto su parecchi quattrini. Tu cosa facevi in Inghilterra, se posso chiedere? Tanta roba. Ho sempre fatto da 20 anni che faccio la musica in un modo o l'altro, ma ho fatto l'università in Scozia, ho fatto 4 anni e dopo ho lavorato per un po'. Tu dove sei nato, scusa? A Sheffield. Sheffield, sei halfway, a metà strada, sì, e quindi potevi scegliere se andare all'università al nord o al sud. Hai scelto la Scozia? Sì, infatti, ma per il clima? Ho sempre vissuto a Londra, perché sono nato a Sheffield, ma dopo 2 settimane mi sono trasferito a Londra. Quindi quando ho scelto di andare a St. Andrews in Scozia era perché volevo andare lontano, sono tipo 700 chilometri, anche 800 forse, e quindi sembrava un'avventura. 500 miglia, diciamo. Sì, esatto. Bisogna sempre fare la conversione. Avevi inciso qualcosa in Inghilterra? O? Sì, abbiamo fatto qualche brano per una piccola casa discografica. Praticamente era un negozio di dischi. Ma non era Rough Trade. No. No, ma un negozio vero con vinile. All'epoca era il negozio. Anche Brian Epstein possedeva un negozio di dischi. Infatti, pensavo la stessa cosa. Chissà che cosa potrebbe succedere. Hai usato il plurale abbiamo, avevi una band, quindi... Sì, avevamo un gruppo e abbiamo fatto un disco per questo negozio di dischi, che hanno deciso di fare una piccola casa discografica, ma purtroppo con loro non è successo niente. Abbiamo suonato un po' in giro, ma dopo gli altri del gruppo, come succede spesso, gli altri hanno deciso di fare lavori normali, di fare normal life. quindi succede spesso. Allora, ci suoni un'altra canzone e poi continuiamo con questa interessante excursus. Poi naturalmente ti chiederò come sei finito da Treviso. Sì. Ma lo tengo per dopo. Teniamo un po' di suspense. Cosa ci canti? Adesso faccio un brano dal disco, ma uno che non... Il disco che si intitola Lost in Transition. Lost in Transition, sì. Cioè perduto nel passaggio, nella transizione. Esatto. Perché c'è la frase Lost in Translation. Infatti che... io quando ho visto il disco non ho neanche letto tutta la frase, ho dato per scontato che fosse Lost in Translation. Dopo un po' che ce l'avevo sotto gli occhi mi sono accorto, anzi inizialmente ho pensato c'è stato un errore di stampa. no, è voluto così. Voluto, perché tu hai fatto una transizione appunto, esatto. da Londra, insomma, dove sì. stavi, a Treviso, però non ti sei perso in realtà. No, ma l'idea è che forse bisogna perdersi per trovare qualcosa di nuovo. È così, per vivere di più, diciamo. O meglio. Sì. E allora che canzone ci suoni? Come si intitola? Faccio il primo brano del disco, che si chiama A Question. Ok. Una canzone molto ispirata dagli anni 60, ma nel stile tipo primi anni 60, leggera, ma con una melodia. Molto spensierata, diciamo. Sì. Un brano così per liberarsi la testa dai pensieri pesanti. Sì. Allora, così. Sempre William Knight, qui dal vivo su Rock Wave, Blu Radio Veneto, restate con noi naturalmente. Got a question for you. I've got a question for you, but I can't explain why I can't speak. I'm losing my head as I fall at your feet. I've got a question for you. I got an answer for you. I've got an answer for you. But you don't wanna know what it is, it appears, 'cause you're standing right there with your hands on your ears. I've got an answer for you. Got a question for you. I've got a question for you. But you don't wanna know what it is, it appears, 'cause you're standing right there with your hands on your ears. I've got a question for you. Got a question for you. Got a question for you. Se posso dire, questo è un pezzo più da Paul McCartney. Che adesso non... Sì, è un po'... No, non è un insulto, notavo anche che, lo sentivo anche nel disco questo, ma anche quando ti ho sentito suonare dal vivo, li avevi visti un anno fa circa, sì. Come supporter di Fran Haley, dei Travis, molto, molto piacevole, molto un bel intrattenimento, diciamo, quello che offrono gli Italians dal vivo, uno spettacolo ritmo di beat, proprio ricco di ritmo, di anche c'era molta gente che ballava, insomma, riuscite a creare un'atmosfera molto vivace. E notavo che tu scandisci molto bene le parole, contrariamente a molti dei tuoi conterranei. Riuscivo a capire quasi tutto quello che cantavi, e questo dipende forse dal fatto che ti sei trasferito in Italia, è un po' cambiato il tuo modo di parlare, forse, non so, non so, è una mia supposizione, perché è raro che riesca a capire così bene un britannico quando canta, ecco. È un discorso interessante, perché negli anni 60 tutti hanno detto, tipo dei Beatles anche, hanno chiesto, ma perché cantate con l'accento americano se siete inglesi? Perché tutti pensavano che cantavano con l'accento americano. Ma non è vero, si sente l'accento di Liverpool, dei Beatles. Quando parlavano si sentiva in maniera molto pesante. Ma si sente anche sui dischi. La differenza è che non è possibile cantare con certi accenti. E il modo in cui parlo in inglese, non posso cantare 100% così, perché non funziona con la musica. Non riesce a incastrare, diciamo. Esatto. Quindi bisogna cambiare un po' l'accento per fare per cantare. E forse sì, quando avevo tipo 15 anni volevo fare musica come Kurt Cobain, volevo fare grunge. Ho sempre provato a cantare in quel modo molto americano, ma dopo, quando avevo tipo 20 anni, 22 anni, mi vergognavo un po', perché dicevo, ma sono inglese, non sono americano, non posso cantare con l'accento americano. Quindi io sto provando a tornare un po' verso l'accento inglese, che non è possibile usare al 100%, come dicevo, ma almeno per fare sentire che sono inglesi, non americano. Sì, c'è da dire poi che è vero che in generale io capisco meglio gli americani, poi ci sono dei casi come i primi dischi dei REM, R.A.M., che sono cantati in una lingua totalmente sconosciuta a chiunque abiti a più di 20 km da Athens, sì. Per cui evidentemente non è una regola. Come ho detto prima, volevo sapere, insomma, tu sei stato in Italia 5 anni fa per 7 mesi, sì, e ti è rimasta dentro l'Italia, hai voluto tornarci, c'è stata una qualche ragione particolare? Una ragione con due gambe. Può essere. Sì, è stato sì, per tanti motivi. Sicuramente quella era una. Ma sono venuto qui, come dicevamo, per 7 mesi. E a quel punto ero un po' stanco di Londra, perché a Londra c'erano tutte queste persone che volevano fare la musica, ma volevano fare quella che era di moda quella settimana. Tipo, è uscito un gruppo nuovo e tutti dicevano, ah, il suono di questo gruppo è fantastico, quindi tutti hanno suonato come quel gruppo. Dopo, la settimana dopo, un altro gruppo. The flavor of the month. Esatto, proprio così. Il gusto del mese, sì. Il modo di dire, appunto. Ma questi non gruppi diversi, ma gli stessi gruppi cambiavano suono ogni settimana, sembrava, per perché tenersi. Speravano di beccare il contratto discografico, magari. Esatto. Non, per me non andava bene così. E quindi volevo qualcosa di diverso. Sono venuto qua, avevo la fortuna di venire qua a fare questo spettacolo. E dopo sono tornato a Londra, ero lì ancora 2 anni. E eventualmente ho detto, ma mi sono trovato così bene in Italia, perché non vado lì per un po'? Forse imparo qualcosa di nuovo, forse trovo un po' di ispirazione per altre canzoni. È un po' strano, perché noi siamo abituati a pensare, insomma, che Londra sia un po' il centro del mondo dal punto di vista musicale, almeno da questa parte, sì, dell'oceano. Tu invece ti sei spostato, oltretutto, neanche a Milano, ma in una, insomma, una città di provinciale, se vogliamo, come Treviso. È come sei stato accolto lì? C'è questo inglese che arriva a Treviso, è di una specie di cosa strana, c'era molta curiosità, immagino anche. Sì, sicuramente per me è stato utile, perché sono riuscito a suonare un po' proprio per quello, perché è inglese, quindi from England. Sì, esatto. Già è qualcosa di diverso, qualcosa un po' interessante qua. Ma non è così strano, perché per scrivere bisogna vedere un po' il mondo, bisogna provare posti diversi, allargare un po' la mente, diciamo. Esatto, come diceva John Lennon. Sì, beh, non l'ho specificato, ma hai afferrato. Chiaramente abbiamo lo stesso background. Andiamo con un altro brano da questo Lost in Transition, sto facendo per dire Translation. Questo si intitola Solitary Girl, cioè un brano famosissimo che si intitola Solitary Man. Sì. Non ha nessuna connessione, immagino. No, questa canzone viene un'altra scritta solo da un'idea iniziale. Sempre in questo negozio dove abbiamo fatto questo disco, per questo posto dove volevano fare la casa discografica. Come si chiamava la band? Scusa, non ce l'hai detto. Band di quell'epoca. Sì. Si chiamava prima Hispana Suiza e dopo The Vivians. Vivians. Ma questo negozio, che si chiamava Bino's, aveva un caffè sul terzo piano. C'era una ragazza lì che lavorava lì, e io e il bassista del gruppo, in quei tempi, andavamo lì spesso e abbiamo sempre visto questa ragazza. Abbiamo detto: ma secondo te cosa fa? Perché è strano. È sempre il cantante quello che rimorchia la ragazza, il bassista mai. Sì. Questa è la regola. Ma a noi interessava l'idea di questa ragazza, perché è strano vedere una ragazza tipo lavorando in un caffè, in un negozio dei dischi vinile vintage, e quindi abbiamo cominciato con l'idea: ma cosa fa questa nella vita? Quando avevamo, non so, non 23-24 anni. Questa canzone ha un po' di anni, è la prima volta che l'abbiamo registrato, ma è stato lì per un po', questa. L'hai tenuta nel famoso cassetto. Sì, esatto. Quello in cui Elvis Costello ha detto che ha ancora anni fa disse che aveva 300 canzoni in un cassetto, perché aveva paura di esaurire la vena. Sì. si era portato avanti col lavoro per la pensione. Ma è interessante, perché certe volte, cioè, arriva un nuovo suono e una canzone vecchia diventa quella giusta per quel momento. È come il vino, bisogna aspettare il momento giusto per tirarlo fuori dalla cantina. Sì, infatti. Ah, benissimo, allora ci ascoltiamo come si può dire, la versione attuale di questa canzone di un po' di anni fa, che si intitola Solitary Girl, sempre da The Italians. Take her hand, gently $5 for a rainy day. Solitary girl, it's time to dry your eyes. Solitary girl, it's time to dry. Solitary girl, you're on my mind. Heaven knows what you'll find. Solitary girl, don't be afraid. Forget about the plans you made. Solitary girl, don't ask me why. All that you can do is try. Solitary girl, are you surprised? Is this you or just a compromise? SMS 346 2320 033. Blu Radio Veneto. Blu Radio. Rockwave. L'onda del rock. Solitary Girl, ci resta un po' la curiosità di sapere com'era una volta questa canzone. Te la ricordi com'era? Diversa. In che senso? C'era più lenta, più malinconica, non so, perché in effetti la canzone, una canzone che si intitola Solitary Girl, uno si immagina magari una ballata un po' strascicata, no? Dici, sta povera ragazza sola. Sì. Invece no, c'è questo contrasto con la musica che tutto sommato è abbastanza spensierata, ecco. Sì, penso che l'idea era sempre di pensare alla possibilità che anche se questa ragazza lavorava in un caffè, poteva fare quello che voleva, se capitava l'opportunità, può sempre cambiare, capitare, diciamo. Esatto. Come hai fatto tu, insomma, che sì, questo piccolo cambiamento, sì, da Londra a Treviso. Ti dirò, io sono stato a Londra un po' di volte, ci torno sempre con un grandissimo piacere, anche perché di solito a Londra ogni sera ci sono 3 concerti che vorrei andare a, sì, vedere. Mancandomi il dono dell'ubiquità, poi è un po' un problema. Comunque, mi pare strano, cioè Londra appunto è una città che offre tantissimo, non ti senti un po' fuori dal mondo stando a Treviso? Senza offesa per Treviso, Padova non sarebbe molto diversa, insomma. No, non tanto. A volte mi sento un po' la mancanza di certe cose, ma per esempio cibo indiano è uno. E stasera, prima di venire qua, visto che ero a Padova, visto che c'è un ristorante indiano qua a Padova, sì, quindi sono venuto a mangiare indiano prima. E sì, cose così, perché non è che la cucina inglese molto buono. Vabbè, però a Londra, anche da quel punto di vista, negli ultimi anni, l'ultima volta ci sono stato, mangiato benissimo. Naturalmente, sì, non tanto cucina inglese, ma c'è una scelta veramente c'è impressionante. Di tutto. E questo, quella mi manca un po', ma c'è la cucina italiana che è il migliore del mondo, quindi quello non è un problema. Dopo, sei un fan del prosecco anche. Sì, fantastico prosecco, buonissimo. Adesso ce l'hai sotto casa, comodo. Sì, ma il fatto è che abitando a Londra, sì, c'è sempre qualcosa da fare, tipo 3-4 cose che vuoi fare ogni sera, ma non puoi fare 4 cose in una sera. Questo è vero. Al massimo si può fare una cosa, e non è possibile neanche andare uscire 7 volte alla settimana, non si può. Quindi diventa un po' si perde il gusto dell'avvenimento, magari. Sì, un po', perché non è una cosa importante se un gruppo importante viene a Londra. Capita ogni settimana. Invece qua, tipo, arriva Paul McCartney poco tempo fa, e è un spettacolo, è una cosa importantissima, una cosa che tutti cominciano a parlare. Ah, ma c'è questo, c'è quello, e tutti hanno voglia di parlare di questo evento, questo concerto, e di andare a vederlo. Sai che c'è Roger Daltrey a Padova? Sì, sì, fa all'inizio di marzo, che presenta Tommy. Sì. Forse sei anche un fan degli Who? Sì, sì, sì, assolutamente. Un gruppo imprescindibile, direi. Sì. Bene, torniamo alla musica dal vivo. Ah, vedo che usi una chitarra Takamine, si dice. Questa l'ho comprato in Italia, a Napoli, perché quando sono andato a fare questo tour, ci hanno rubato il furgone vicino a Napoli. E io avevo la mia chitarra. Sembra un luogo comune. Sì. E avevo la mia chitarra acustica con me per fare i pezzi in acustica. Terribile per una band. Arrivare in strada e non trovare più il furgone con gli strumenti. Ma non solo quello, perché era un spettacolo, quindi luci, anche vestiti di scena, tutto sparito. E quindi non avevo la chitarra, e la compagnia per fortuna ha detto: ok, ti compriamo un'altra chitarra. Quindi sono andato in giro a Napoli, ho trovato questa che è fantastica, bellissima. Quindi da 5 anni questa è stata la mia chitarra acustica. Bene, e che canzone ci presenti? Faccio un pezzo, l'ultimo pezzo lento che voglio fare. Questa è un'altra, un po', come si può dire, pensierosa. Pensierosa, va benissimo. Questa è la storia di un uomo che lavora, che guida l'ambulanza, che fa l'ultimo giorno del suo lavoro, va in pensione. È la storia di quello che sta pensando, quello che i pensieri che ha in mente. È una cosa un po' strana, come sì. In mente, conosci qualcuno che guida ambulanze? O? No, anche questa non so da dove viene questa canzone, ma voglio, certe volte dico, se non scrivo sempre, se non provo a scrivere qualcosa di diversa, scrivo sempre la stessa canzone, tipo amore, sì. Questo qua, questa. Certe volte è giusto, perché la canzone è fatta per quella cosa, l'amore è la cosa più bella di cui si può scrivere, ma ogni tanto bisogna scrivere anche qualcos'altro. Ok, allora questa è la canzone del guidatore d'ambulanze, sì. Pensionando, è decisamente originale. Come si intitola? Si chiama About Time. About Time, sempre William Knight qui su Blu Radio Veneto per Rock Wave. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. The night is running over, bitter evening in July. His arms are feeling heavy, makes it difficult to drive. The crashes cause the traffic that they have to go around, and his heart feels like a football that's been kicked into the crowd. It's about time I let you go. It's about time, think you should know. Nothing quite seems right, but it gets you through the night, as if there's only one more day to go. He pulls up at the crash scene, where a crowd of people stare, quietly rubbernecking at the bloodstains everywhere. He wonders, can she hear him? Does she even understand? Beside him in the wreckage, with her head held in his hand. It's about time I let you go. It's about time, think you should know. Nothing quite seems right, but it gets you through the night, as if there's only one more day to go. Don't cry, my dear, we'll get you out of here. He sees the signs begin to fade to flatten lines. It's true to say, it thinks about her every day and almost every night. It's about time I let you go. It's about time, think you should know. Nothing quite seems right, but it gets you through the night, as if there's only one more day to go. It's About Time, l'hai definita una canzone pensierosa. Sì. In inglese come la definiresti? Thoughtful. Thoughtful, sì, thoughtful. Quindi proprio penso. Però noi in Italia, quando pensiamo a una cosa pensierosa, pensiamo un po' triste anche, ma questa non era una canzone triste comunque. No. Era introspettiva, diciamo, però sì. Non c'aveva, di solito gli americani quando fanno una canzone pensierosa usano appunto i giri di blues, sì. E automaticamente c'è tutto il retaggio, lo schiavo, cioè una situazione un po', come dire, difficile, pensieri pesanti. Sì. Invece questa è una canzone, sì, di uno che pensa, ma non è un pensiero pesante. No, il fatto è che io certe volte mi piacerebbe scrivere roba triste, pesante, ma non ho avuto una vita difficile, quindi non mi sento... Stavo per dirlo, che hai l'aria di essere uno che non riesce a essere deprimente, neanche provandoci. No, io vedo tanta gente che ha dei problemi seri, soprattutto in altri paesi del mondo, e penso adesso sembra un po' tipo, non so, Bono che dice sempre all the people are, they're really there's real trouble in Africa, ma no, io mi sento molto fortunato e quindi voglio fare musica non sempre tipo roba felice, perché diventa un po' noioso anche quella, fare solo anche quello, perché diventa poi quella felicità finta, sì, delle feste, di certe feste o di certi programmi televisivi dove tutti ridono e dopo un po' che li guardi dici ma cosa c'hanno da ridere, esatto, li esatto, pagano per ridere, quindi diventa una cosa finta. Ho capito quello che intendi dire. Sì, quindi quando sono felice scrivo delle canzoni felici, quando sono un po' triste scrivo quello che viene fuori, ma non è mai tipo il fine del mondo, la mia vita è terribile, perché non lo è. Beh, siamo tutti felici di questo. Dai, quello che ti dicevo anche appunto quando ho visto lì gli Italians, che vi siete esibiti lì al New Age, e c'era proprio un'atmosfera di festa, ecco, di gente che si divertiva sul palco e di conseguenza trasmetteva anche il divertimento al pubblico sotto, che fra l'altro suonavate come supporter di Fran Haley, che è sempre una situazione un po' difficile, sì, perché si suona per qualcuno che non è venuto a vedere te ma è venuto a vedere un altro, sì, per cui immagino che per un musicista sia sempre una situazione in cui bisogna un attimo sintonizzarsi forse, sì, sul pubblico. C'è sempre quel paura che forse la gente va via a quel punto perché sono venuti per vedere l'artista, quello famoso, e quindi stai sempre pensando prima, ma rimangono ad ascoltare la nostra musica o vanno al bar a prendere qualcosa da bere? Beh, prima hai detto avete fatto con quel spettacolo sui Beatles, è stato in Italia 7 mesi. Sì. Sei andato dappertutto, perché sette mesi è veramente un tempo lunghissimo. Abbiamo fatto 215 spettacoli in 7 mesi. Cioè, uno, non avevate un giorno di riposo praticamente? No, abbiamo fatto anche 2 in un giorno certe volte. Ah, beh, allora sì che vi riposavate. Ma sì, abbiamo fatto tipo di solito 8, tra 7 e 10 alla settimana. Beh, eravate come i Beatles ad Amburgo, sì, cioè sfruttati da lavorare come somari proprio. Sì. Certo, immagino, vabbè, a parte la fatica fisica, però dal punto di vista diciamo dell'esperienza, alla fine di un periodo del genere un musicista acquista una facilità, diciamo, nell'uso sia nel cantare, nel suonare, sì, che non penso ci sia un altro sistema per ottenere un no, simile. No, non c'è. Salire sul palco ogni giorno per un periodo ti fa sentire molto più sicuro, perché c'è sempre un po' di paura. Quella è giusta che ci sia, forse, perché sennò sì, troppo relax va a finire che si fa qualche errore, no? Sì, e non solo errore, perché gli errori per me fanno parte dell'esperienza dal vivo. Una serata dal vivo senza errori è un po' asettica. Sì, in un senso, perché gli errori, certe volte fare un errore vuol dire che stai provando di andare oltre, di fare qualcosa che non hai già fatto, e per me è quella che fa la differenza tra musica pop e rock e musica classica. Perché la musica classica, l'idea di fare tutto perfetto, di provare un pezzo finché è perfetta, è quello che è tipo il pianista o l'orchestra sa che non può sbagliare, che sarà perfetta ogni serata. Ma è quella è fantastica, è una, non so se potrei fare così, non penso, ma per me la musica pop, la musica rock è un'altra cosa, è la gioia di salire sul palco e vedere cosa succede. Ovviamente bisogna fare tantissime prove per arrivare a quel punto, ma non è detto che la canzone deve essere uguale ogni volta. È bello quando tipo il batterista cambia qualcosa o il bassista fa un giro diverso, qualcuno urla no, facciamo doppio ritornello in quel momento, e così è bello e divertente, e il pubblico vede che il gruppo ha voglia di provare di scherzare un po' sul palco e quindi la musica diventa più reale, più vera, stavo per dirlo. Dopo magari senza esagerare come fa Dylan, che sì, che lì è proprio, gli piace stare sul filo del rasoio tutto, sì, il tempo, ma probabilmente lì c'è anche una questione che quando uno c'ha 70 anni e sono 55 anni che fa musica, se non avesse quel tipo di stimolo lì diventa un po', appunto, come dicevi tu. E prima, fuori, mentre i microfoni erano spenti, mi dicevi che qui nel 2012 è tua intenzione realizzare una nuova registrazione, questa volta su una durata maggiore, perché questo Stand and Play ha solo 5 brani, giusto? Sì. Quindi vuoi fare un vero album, cioè vero nel senso di minutaggio, ecco. Sì, sì, perché con la stessa band? Non so, o con il gruppo o da solo, dipende come si può fare, perché per ora non suoniamo insieme con il gruppo, almeno dal vivo, perché non è possibile fare. Prima è difficile per tutti i band, tutti i gruppi che fanno musica propria, trovare le serate, e diventa un impegno abbastanza grosso. E quindi gli altri sono più intelligenti di me e dicono no, ma non è giusto il modo che bisogna fare per suonare in questi posti, perché certi posti non si comportano bene con i musicisti, perché sanno che se un gruppo non vuole andare a suonare c'è sempre un altro gruppo che andrà. Quindi bisogna essere un po' stupido come me, un po' testardo, e dire no, ma vado avanti lo stesso, anche se so che mi prendono in giro ogni tanto, nel senso che è così questo mondo, ma sì, mi diverto quando suono, quindi va bene, per me va bene anche così. Questa è la cosa più importante. Comunque il disco in un modo o nell'altro, sì, o con il gruppo che o da solo, quest'anno vado a fare un album, perché le canzoni sono pronte, quindi dipende solo dal tempo e solito discorso di soldi. Chiaramente, anche beh, da quel punto di vista adesso le cose sono un po' più facili, insomma, sì, con i progressi della tecnologia non c'è più bisogno di andare in grandi studi per fare un disco, no, infatti, di qualità professionale, insomma, se riesce ad avere un ottimo risultato. Ho avuto molte prove, abbiamo tantissimi musicisti che vengono qua e ne parlavo anche recentemente con altri ospiti, anche gruppi giovani italiani che magari tu hai avuto delle esperienze, tu sei nato in Inghilterra, quindi c'è anche una tradizione diversa su questi suoni, ma anche i giovani gruppi italiani, ne avrai sentiti anche tu, riescono a realizzare dei dischi professionalmente molto molto ben fatti, quindi sono sicuro che un musicista della tua esperienza non avrà problemi a realizzare un disco. Certo, farlo da solo diventa una cosa molto diversa rispetto a lavorare con la band, immagino. Sì, ma non, anche quello potrebbe essere interessante, perché così bisogna... oltre alla chitarra suoni altri strumenti? No, suono un po' il pianoforte, ma l'idea, se andrei in studio da solo, l'idea sarebbe di tipo aggiungere altri strumenti o chiamare musicisti diversi per venire a suonare o usare tipo qualche effetto strano per vedere come viene. A me non piace tantissimo canzoni fatte solo con il computer, con roba elettronica, ma un po' sì, perché siamo in 2012, bisogna cambiare con i tempi, quindi sto pensando che sarebbe interessante provare qualcosa. Tutte le cose, tutto sta nel vedere come le usi, insomma, sì, perché... Ma dicendo quello, mi piacerebbe anche suonare, registrare con il gruppo, con quelli del primo disco, perché sono bravissimi i musicisti, che sono Fabio Rizzetto a voce, basso e voce, Patrizio Casagrande al pianoforte e tastiere, Simone Bartolini batteria e percussioni. Bortolini, giusto? Sì. Bortolini, sì. Vedremo, insomma, resteremo aggiornati, perché immagino, insomma, ci farei sapere come vanno queste cose. Sicuramente sì. Ci suoni qualcos'altro adesso? Sì, certo. Faccio un... Basta con i pezzi lenti, però, perché se, altrimenti tutti vanno a dormire. Faccio un pezzo un po'... Questa è un po' ispirata del rock and roll, un pochino, o rock and roll, rockabilly. Questa si chiama The X Factor e parla di un ragazzo che torna sempre alla sua ragazza, anche se non, forse non dovrebbe, perché ma c'è qualcosa che ti porta sempre a ritornare da sempre da quella. Tutti ne conosciamo almeno uno o due di questi. Sì. esatto. Ok, allora X Factor, sempre William Knight qui su Blu Radio Veneto, state ascoltando Rock Wave. Girls, girls, girls, won't you listen to me? What's the point in getting happy? To try to paper over those relationship cracks, just kick him to the curb and then he'll want you back. Suddenly there's flowers waiting at your door, and he said he's picked out what the Hoover's for. He wants to take your parents to the Dardanelles, and he started to appreciate the sound of wedding bells. Why do I keep going back to her? Guess you'd say she's got the X Factor. Why won't you listen to me? What's the point in getting angry? I told you I'd be getting on a little bit late, so why are you still waiting, looking so irate? First there was a party for the girls in cells, one of them is gonna move to New South Wales. Then that guy called Alan, who you met last week, offered me a drink at some place really, really chic. Why do I keep going back to her? Guess you'd say she's got the X Factor. Why won't you listen to me? I don't want to have a baby. We just got back together, so let's take things slow. Well, if that's your answer, then I better go. Wait! Suddenly it's seeming like a great idea. In fact, why don't we try and have one every year? Instead of that long holiday in Istanbul, I spend the summer picking out a nursery school. Why do I keep going back to her? Guess you'd say she's got the X Factor. Why do I keep going back to her? Guess you'd say she's got the X Factor. Un brano corto, naturalmente, sì. Visto lo stile, che è proprio classico. Sì, era un po' un brano legato al rock and roll primitivo, diciamo. Sì. Starebbe bene su disco con un arrangiamento un po' alla Cramps. Cioè, sì, esatto. Molto contrabbasso, molto ruvido. Infatti, un misto tra rock and roll e rockabilly sarebbe molto interessante per questa. L'idea di fare un disco coeso o molto vario, perché appunto questa canzone qua, che è abbastanza diversa dalle altre, mi ha fatto venire in mente, cioè vuoi fare un disco tipo album bianco, diciamo? No, bisogna scegliere un po', perché non voglio fare una cosa, il White Album è fantastico, ma ci sono troppe canzoni. Sicuramente, se hanno fatto un solo disco invece di due, sarebbe stato l'album più bello del mondo. Ma il fatto che, secondo me, che hanno messo tutto, forse porta via un po' l'impatto del disco, almeno. Sì, beh, poi ha fatto storia anche per quello. Poi c'è da dire che loro erano in tre a scrivere, eh? Tu sei da solo, per cui insomma, non possiamo pretendere. No, non è che riesco ad arrivare al White Album. Bisogna sempre porsi degli obiettivi, no? Sì. No, ma adesso ho capito che faccio tipo due tipi di canzoni, almeno quando scrivo per me stesso. Adesso sto scrivendo anche per altri artisti. Ah, questo è interessante. Sì. Ma italiani? No, un po' misto, dipende quello che succede praticamente. Ma come funziona una cosa? Cioè, qualcuno ti ha chiesto delle canzoni? Praticamente sono andato a settembre in Salento per una settimana che si chiama Music Village, una cosa organizzata di una compagnia che fa questo incontro, e i gruppi e artisti vanno lì, c'è una settimana di incontri con produttori, case discografiche, e fanno questo, e così puoi suonare davanti una giuria di gente del mondo della musica e fare quello che ti proporre il tuo progetto e di parlare anche con questa gente. E quindi è stata una settimana bellissima, molto interessante. Ho conosciuto anche musicisti fantastici, bravissimi, e da quello è venuto fuori questa possibilità. Quindi è solo all'inizio adesso, ma vediamo se succede qualcosa. È interessante perché non ero corrente di questa situazione. Cioè, so che ci sono in Italia dei musicisti, soprattutto delle donne, che, vabbè, a parte Mina, ma anche la Mannoia, la Bertè, insomma, hanno sempre chiesto canzoni in giro, no? Ad altri. Però so che ad esempio Mina riceve, ascolta tutte le canzoni che le vengono mandate. Questo te lo dico perché se per caso avessi scritto una canzone che secondo te può andare bene a Mina, lei se le piace poi la incide e ti manda un assegno. Ah. Lo so con sicurezza perché me lo disse una volta dopo un concerto Manuel Agnelli degli After Hours. Ah, okay. Che Mina fece una cover degli After Hours e Manuel mi disse che era rimasto abbastanza stupito da vedere quanti soldi gli sono arrivati per una sola canzone. Per cui, vabbè, questo non c'entra molto con la nostra trasmissione, però te lo dico a memoria futura. Tu hai ancora la famiglia, naturalmente, a Londra o dove? Sì, quindi vai spesso? Vado, sì, abbastanza spesso. Sei andato a abitare vicino a un aeroporto dove vola Ryanair. Infatti, ma è un po'... Quando è possibile preferisco andare da Venezia, perché da Venezia arrivo a Gatwick, invece da Treviso bisogna andare fino a Stansted. La tua famiglia come ha preso? Adesso non so se è una famiglia numerosa, sei figlio unico, non ho idea. No, ho anche una sorella. Ma vabbè, non è una famiglia grandissima. Tanti, no. E come hanno preso questa tua decisione di trasferirti in Italia? Sono stati bravi. Dicono almeno possiamo venire a trovarti. hanno trovato subito il lato positivo, sì, della cosa. Sì. In effetti adesso, insomma, rispetto a una volta è molto più facile. Sì, e con le tecnologie tipo Skype e tutta questa roba qua per fare video call col computer si sente un po' più vicini. Mm-hmm. Sì, quindi no, ma sanno che io sono così. Sono andato via per l'università un po' lontano e quindi sì, la distanza a quel punto è più o meno la stessa. Poi non so, magari per un dei londinesi la Scozia è anche più esotica dell'Italia, sì, in un certo senso. Sì, non è che c'è tanta gente che va. Che cosa hai studiato, per curiosità? Ho studiato inglese, tipo letteratura e lingua inglese, un po' di tutto, ma è stato bello. Sono andato, il motivo più importante per me era di fare tipo teatro e musica, di studiare, quella era la cosa secondaria. E quindi hai fatto anche teatro, tu hai recitato? Sì. Sono andato anche al Edinburgh Festival. Sì, il famoso festa di Edimburgo, dove ci sono, è uno dei più famosi d'Europa. Sì, siamo andati con un spettacolo, spettacolo teatrale, abbiamo fatto Otello di Shakespeare. Ah, quindi siete stati, diciamo, su, abbastanza, sì. abbastanza su, perché so che a Edimburgo a volte ci sono anche quegli spettacoli che sono tutti nudi o cose sì, sì, no, del genere. No, no. Non ero nudo, non quella volta. Ok, adesso qui noi siamo, lo dico ai nostri spettatori, insomma, non è che prepariamo molto, ai nostri ascoltatori, ho detto spettatori perché avevi parlato di teatro, non è che prepariamo tutto prima, cosa, cerchiamo di creare un po' un'atmosfera... così come una chiacchierata fra amici, per cui io non ho detto niente a William, ma tu devi sapere che sei finito in un covo di Beatles fan di vecchia data, per cui sì. Io ti chiederò di cantarci una canzone dei Beatles magari in chiusura del programma, ecco. Quindi, okay. Tanto so che le sai, per cui non è che ti metto in imbarazzo, insomma, però non posso perdere questa occasione. Prima ci ascoltiamo un altro brano dal vostro standard play, appunto, okay. Lost in Transition. Qui si ritorna al discorso, prima abbiamo ascoltato Best Dressed Man, questa invece è una ragazza che si veste, che ha addosso un impermeabile arancione, Orange Coat Girl. In Italia un impermeabile arancione c'erano solo quelli dell'ANAS, non so se in Inghilterra per farsi vedere nella nebbia di Londra si sarebbe detto una volta, adesso non c'è più neanche. Questa storia viene dall'Italia. Ah, questa, ecco, sì. Vedi, io sì, pensavo di aver avuto una grande intuizione, invece. No, dall'Italia c'era. In Italia. Però non possiamo sapere chi era questa ragazza. Ho capito. No, non possiamo sapere. Non possiamo saperlo, ok, è un segreto. Comunque è la Orange Coat Girl. See you waiting across the square. You look so pretty standing there. Our eyes are open and then they meet as cars pass by politely in the street. Uh-oh, I know this feeling. Now I'm hurt. You got me reeling in to your arms and I'm there. Seems so appealing. Off our clothes anywhere. Orange coat girl, you blow me away with a kiss. Now we're together but far apart. Well, I guess I should have known it from the start. Our eyes are open, a bit too wide, and guilty secrets got no place to hide. Uh-oh, I know this feeling, cracks appearing in the ceiling. Is this how it'll end? Uh-oh, I know this feeling, honesty is too revealing to be shared. Our teeth with our souls a bit. Orange coat girl, you blow me away with a kiss. Orange coat girl, I can't go on living like this. But still you're here. Frankly, that's miraculous, my dear. I can't see futures or read your palm, but I know we've had our storms before the calm. Uh-oh, I know this feeling. What's my love got me believing in? I don't know, but it's right. Once again, our love is breathing in with a sigh. still alive. Orange coat girl, you blow me away with a kiss. Orange coat girl, I'm finding it hard to resist. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Orange Coat Girl. Ci avviciniamo alla fine di questo appuntamento. Questo brano era sempre da Lost in Transition. Il disco si trova su internet, si può acquistare direttamente da voi. C'è una distribuzione, come funziona? Sarà su iTunes tra poco, ma non è ancora lì. Prima abbiamo sempre venduto il disco ai concerti. Nel vecchio modo. Sì, anch'io diciamo ho qualche problema con gli MP3, no? Sono un po' sì, abbiamo una certa età qua. Sì. E il possesso fisico dell'oggetto ha per noi ancora una certa importanza. Poi vabbè, tu sei un grande fan dei Beatles, quindi loro sono stati forse i primi a dare una grande importanza alle copertine dei vinili. Sì. Per cui c'era questa piacere tattile dell'oggetto e anche il lavoro che c'era di concetto dietro, che insomma aggiungeva qualcosa, sì, di più. Non so tu come ti rapporti con questa nuova situazione. All'inizio, quando ha cominciato tipo MP3, lettore MP3, iPod, tutta questa roba, ho detto ma è un peccato, perché per me, anche tipo non tanto tempo fa, quando avevo tipo 15 anni, 16 anni, andare in un negozio dei dischi, a quelle epoche erano i CD, ma andare lì, guardare tipo uno dopo l'altro, vedere la copertina, forse se non era chiuso, aprirlo e vedere il testo dentro, era una cosa... Scoprire che volevi comprarne 20 e avevi soldi, sì, per tre. Ma io ho passato un pomeriggio intero, tipo quasi ogni settimana, in un negozio dei dischi. Che tu stavi a Londra, pensa a quelli che dovevano partire dall'Italia, sì, per trovare i negozi forniti bene. Sì. Quindi insomma iTunes e poi ai concerti. Sì, c'erano anche in qualche negozio, ma forse non c'è più. Forse l'hanno venduto o forse le abbiamo preso noi quando non avevamo altre per vendere ai concerti. Allora abbiamo tempo ancora per un paio di canzoni, direi una delle tue e poi ho detto ti abbiamo messo così, ti costringiamo con la forza, ma so che comunque sono sicuro che a te suonare le canzoni di Beatles faccia sempre piacere, insomma. Sì, è vero, ma è stato un po' di tempo, quindi dopo, quando faccio quello, se faccio qualche errore non... No, diciamo che non mi preoccupo molto della cosa, francamente. Dici intanto la canzone che ci suoni adesso, come... Sì, adesso faccio un altro che vorrei mettere sul nuovo disco. Questo è... Un nuovo disco che non ha un titolo, immagino. No, per ora no. Un po' presto. Sì. Ma questa qua l'abbiamo sempre usato per chiudere i concerti, quando abbiamo suonato come The Italians, facendo solo roba nostra. È un brano che si chiama Super Role Model. Sembra un po' un scherzo, ma no, non lo è, perché mi dà fastidio vedere nei giornali, in TV, queste modelle che sono tipo così. Non posso dire così alla radio, perché non ha tanto senso. Degli scheletri. Esatto. E che fa... crea questa tendenza, esatto, per altre ragazze, altre donne che vedono queste immagini e dicono ma io devo essere così, Quindi ho scritto questa canzone perché a Londra è un disastro, anche perché non solo le immagini, ma anche il modo di comportarsi, perché tutti vogliono essere tipo una modello, un wag, sì, okay, quello che moglie che guarda il prossimo con disprezzo, con aria di superiorità anche. Sì, esatto, a me ho inquadrato il tipo, insomma. Sì. Ne abbiamo qualcuno anche in Italia, lo saprai, sì, ormai, no, non assolutamente, non avete l'esclusiva. Allora, questa è Super Role Model, è sempre da William Knight qui su Blu Radio Veneto. I've got a friend in fashion, she dresses like a tramp. Her food is strictly rationed and her boyfriend's really camp. She doesn't go out drinking cause the calories all count. And when she's finished eating, she makes sure it all comes out. She's a super role model to me. Super role model on the BBC. Super role model, it's true. Super role model, it could be you. She's got the right connections, her name's on every list. And if she's not at the party, then she's sure that she'll be missed. Her friends are in high places in the chicest bathroom stalls. At least she's seen their faces in the mirror on the floor. She's a super role model to me. Super role model on the BBC. Super role model, it's true. Super role model, it could be you. She's a super role model to me. Super role model on the BBC. Super role model, it's true. Super role model, it could be. We saw her on TV. We all thought she looked happy. Knows what was going through her mind. I've got a friend in fashion, her scene is underground. Now she's been discovered, we know where she's to be found. She's made it to size zero, and with time still on the clock, she's a super role hero in a narrow wooden box. She's a super role model to me. Super role model on the BBC. Super role model, it's true. Super role model, it could be you. Super role model, direi che di tutte le tue canzoni questa è l'unica che ricorda abbastanza i Beatles. Come diciamo gli accordi e anche poi lo stacco in mezzo, insomma c'era qualcosa, sì, di Beatles. Perché uno pensa, questo ha fatto per anni cover dei Beatles e poi le sue canzoni dovrebbero sembrare assomigliare tutte a quelle, invece non è così. Ho trovato tanti altri riferimenti a musicisti, soprattutto inglesi, come è normale che sia, insomma. Però ho l'impressione anche che tu, quando scrivi, non so, forse stai un po' attento a non essere troppo, sì, beatlesiano, perché sì, sarebbe un po' banale forse. Non solo quello, ma non arriverei mai a quel livello, okay, di canzoni, perché loro hanno, era un gruppo unico, una volta si può trovare un gruppo così, perché in quattro hanno fatto un successo fenomenale, ma non solo il successo, il fatto che il gruppo era pieno di musicisti non virtuosi. Nessuno dei quattro è tipo il più bravo a quel strumento, ma hanno fatto quello giusto per la canzone. È quello che prendo dai Beatles, che bisogna fare quello che serve la canzone, non quello che va meglio per te, tipo fare un assolo di 10 minuti o di fare tipo tutto da solo, quando il cantante fa tipo 10 canzoni da solo, quando c'è anche il gruppo. A me non piace quella roba là. Sì, è quello che mi è spesso da dire. Abbiamo da volte, no, ascoltando un musicista, ti viene a dire: ok, abbiamo già capito che sei bravo, non occorre che ce lo fai, ce lo ripeti tutte le volte, come quando parli con uno stupido, no? Che dici: gli ripeto le cose 3 volte perché sennò non capisci. Sì. Ok, hai fatto una sola, abbiamo capito che sei bravo, non occorre che la canzone dopo mi fai un altro solo più o meno simile. Capisco perfettamente. Peraltro c'è da dire che perlomeno Paul McCartney come bassista ha fatto qualcosa di veramente innovativo. Sì, oh no, assolutamente. Magari non tecnicamente difficile, ma sì, molto, molto importante. Sì. Diciamo. Nessuno dei quattro suonava male, erano tutti bravi, ma non a fare quello che fa tipo, non so, parlando di chitarristi tipo Steve Vai, Yngwie Malmsteen, sto per dirlo, sì, Joe Satriani, questi che fanno tipo roba. A certe persone piace questo stile di musica, e non dico che non è bello come musica, ma io preferisco sentire canzoni, quindi vuol dire strofa, intro, strofa, ritornello, middle eights, possibilmente belle. Sì, con una struttura, con una melodia bella, con forse cori, con una cosa che mi fa sentire felice, mi fa sentire, o mi dà energia, o mi fa sentire anche triste, ma una cosa che cambia le mie emozioni. E okay, sentire 10 minuti di a solo, non, a me non fa quello. Se non sta suonando Slash dei Guns N' Roses, perché lui a me piace sentire lui quando suona chitarra per 5 minuti. Non... questo non me lo sarei mai aspettato. No, è vero. Bene, siamo alla fine del tempo a nostra disposizione. È stato con noi, è ancora con noi, William Knight. È stato veramente un piacere averti qua con noi. Anche per me, grazie mille. Adesso aspettiamo che tu faccia il disco, poi magari se avrai piacere o l'occasione di tornare a trovarci, sei sicuramente il benvenuto. Grazie, sì. Potremo ascoltare anche questo nuovo lavoro, ci vorrà immagino qualche mese. Insomma, sì, no? Un po' di tempo, ma spero per l'estate di aver qualcosa pronto. Benissimo, ti facciamo i migliori auguri naturalmente per questo lavoro. Grazie. Ti ringrazio a nome di tutta la nostra redazione, ringraziamo anche Agostino per l'impeccabile regia come al solito, e vi ricordo che Rockwave è con voi tutte le sere dalle 22.30 alle 24, minuto più, minuto meno, qui su Blu Radio Veneto. William ci augura la buonanotte con un brano dei Beatles che non so qual è, ma lo sceglie lui, tanto sono tanti, è solo l'imbarazzo della scelta. Sì. Cosa ci canti, William? Faccio You've Got to Hide Your Love Away. Guarda, tu non ci crederai, ma ho detto: se mi chiede un pezzo, gli chiedo You've Got to Hide Your Love Away. Giuro, non lo. No. Questa è, qua siamo quasi alla telepatia, signori. Vabbè, crediateci o no. Buonanotte a tutti, da Stefano Dainese. Grazie, William, per grazie, essere con noi. Buonanotte. Ci lascia con questa bellissima canzone dei Beatles. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm in. How can she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say. Got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away.